24 mattino di Alessandro Milan. Siamo tutti dei ribelli, tacca tacca da, del PD noi siamo belli, cambieremo questa Italia, sì, entreremo nella storia, sì, caro Letta, governiamo insieme, non ci batterà nessuno insieme, ma permettimi di dire una cosa ben per Grillo, e qui la botta, non fare il buffone, se ti vuoi stare con me, non fare il buffone, sorrendi il ribelle, tra un po' sarò il re. Vabbè, ma Fiorello è un gigante davvero. Un grandissimo Fiorello per iniziare, che con Renzi che dice non fare il buffone a Beppe Grillo in musica. Forza ragazzi, che sono le 6:31 minuti, dai, schema che è? Ci hai rotto i coglioni con questa storia che delle ore di sonno. Ma manco detto niente ancora. E tutte le settimane sempre sta rottura di coglioni. Ma guarda, io sono 30 anni e mi alzo alle 4:30, ma mi vado a rompere i coglioni al centro come voi, eh. Ma ho capito, ma manco mi leggono nel pensiero, non mi ero ancora lamentato per la mancanza di sonno, cioè qua subito. Vabbè, voglio salutare con grande gioia Miriam Lucchetti in redazione, e oggi dietro la corte in regia. Mamma mia, che Dio ce la mandi buona. Vabbè, no, grande abbraccio a Pietruzzo, come sempre. E poi lui è siciliano come il nostro grande Vincino, che voglio subito salutare prima dell'apertura del Parlamento. Vincino, ti ho messo un siciliano qua in regia. Va benissimo. Mamma mia ragazzi, però ti eri lamentato su Quit tu alle 5:30, eh? Ah sì, no, non è che mi ero lamentato, ho detto schema Allegri inserito, dai, questo è lo schema Allegri, 2 milioni all'anno per dai, forza, dai, vabbè, apriamo il Parlamento, su, con lo schema Allegri, dai. Il caffè volentieri a tutti quanti. Vabbè, insieme a Vincino non l'ho salutata con mancanza di cavalleria per prima, ma c'è la capissima della Padania, Aurora Lussana, buongiorno, con un forcone in mano sicuramente in giro per le piazze mezza Padania, mezzo nord, dove sei? No, sono a Como. A Como, ah, fantastico. Sì, missione segreta. Un caro saluto a te Alessandro, come sempre un caro saluto ai tuoi radioascoltatori, gli certo, amici di Radio 24. Sono in fase post congressuale. Sì. Ma tu non dici come Borghezio o Padania Libera, no? Ma voi non ci credete, Vincino, ma tu forse non hai mai provato, ma Borghezio, se tu lo chiami al cellulare, cioè non è che lo fai in onda. Se tu adesso lo chiami da un numero privato, se sei un suo amico, lui risponde così: Padania Libera, buongiorno. No, com'è che dice? Buona Padania, buongiorno, qui Padania. Cioè, così risponde proprio nella vita, non è che lo fa ad uso e consumo delle trasmissioni, eh. Proprio così risponde Vincino, vuoi provare? No, assolutamente no, guarda, oh, no, nessuna voglia. No, secondo me tu un po' vuoi provare. Chiamare Borghezio la mattina, guarda, nemmeno la sera, mai. Vabbè dai, verso mezzogiorno ti do il cellulare di Borghezio, no. Provi. No. No, vabbè, no. Vabbè. Ma posso dire che al congresso della Lega domenica all'Ingotto tutti i rappresentanti delle delegazioni straniere, l'FPO austriaco, il PVV neerlandese, piuttosto che la delegazione russa, lo straordinario Geert Wilders, che insomma è stato applauditissimo, lui insomma è uno che rischia la vita per le sue idee contro il centralismo europeo, l'islamizzazione europea, insomma, Pinfortello, Van Gogh li hanno fatti fuori. Ci hanno salutato tutti con ciao Padania, ciao padanesi, così giocando un po' su neerlandesi, e insomma nessuno ha usato il termine Italia, insomma questi rappresentanti dell'Europa dei popoli, perché questo è dei 100 drapò, ci hanno salutato con ciao Padania. Capito? Ciao Padania. Capito, Vincino, Italia cancellata, altro che... Anche rappresentante era il portavoce, lui molto bravo, di Marine Le Pen, ci ha salutato così, ciao Padania, ciao un po' Padania, come Borghezio. Ciao Padania, forse. Quattro disgraziati in tutta Europa, Fare. No, chi c'era? Gli unici veri indipendentisti che ci sono in Italia, no? Chi sono gli unici? Sono stati gli unici veri indipendentisti. indipendentisti che hanno fatto una guerra nel 46-47, poi ci hanno arrestato fino a chiaro aprile e via, e ci hanno dato una barca di soldi e ci hanno comprato. Allora, intanto così chiudiamo questo argomento. Sì. Sai, caro Vincino, la prima pagina della Padania, beh, oggi è geniale, devo dire, la nostra direttrice ha fatto la prima pagina, ha messo la foto di Salvini e Renzi, che sono accomunati da che cosa, Vincino? Salvini e Renzi, cosa hanno in comune? Moncler. Ma no, il nome di battesimo, dai, Matteo. E il titolo è Un Matteo di troppo. E indovina, caro Vincino, secondo Aurora Lussana, chi è il Matteo di troppo tra Matteo Salvini. Renzi e Matteo? Sicuramente Salvini. Matteo Salvini, ovviamente. Ovviamente. Vabbè, allora, cari ascoltatori, caro Vincino, all'alba degli 88 anni c'è un signore che ha minacciato fortemente le dimissioni. Siamo in semestre bianco praticamente. No, non siamo in semestre bianco. Giorgio Napolitano ha detto: ma cos'è, Vincino, un avviso a Renzi? Non fare scherzi? No, è che lui esattamente il 13 gennaio si dimette. Perché c'hai la data tu? C'ho la data, si dimette. Per questo dicevo che siamo nel semestre bianco. No, ha dato l'avviso, non si possono sciogliere le camere perché siamo nel semestre bianco. Ma che vuol dire il 13 gennaio perché, si dimette? Ma così, dai. Non ne può più, guarda, ha sbagliato tutto, guarda, ha sbagliato tutto. Poi è uscito il libro di Travaglio, che per lui è un incubo quel libro, è l'unico italiano che crede a Travaglio, Napolitano. Ma no, ma adesso, no, la questione, ieri ha parlato, gli saluti istituzionali di Natale. Ha fatto pure un appello a Forza Italia, è disperato. Ha detto a Berlusconi, che raccontano già i giornali, è infuriato, pare sia pronto a sostenere l'impeachment se Grillo lo propone. Ha fatto capire, io sono qui, sono stato eletto per le riforme, per garantire le riforme, e se queste riforme non ci sono, valuterò. E sono felici che se ne vada, tutti. Ma i tre quarti d'Italia oramai è felice che se ne vada. Ma dai, ha sbagliato tutto. Scusi, ma il capo dello Stato, dai, ho Vincino, capito, ma il bicapo dello Stato, come dire, no, cioè già è un errore costituzionale di per sé, no? Ma che è Roosevelt? Cioè, Roosevelt lo fa tre volte, ma Roosevelt aggiusta economicamente l'America. Ma non voleva farlo, ma già ci scordiamo. Aurora Lussana, di qualcosa tu. Ma non è vero, tu, ha ragione Travaglio, il coso, non è vero che non voleva farlo. No, certo, brigato sino alla fine per farlo. A dire una cosa a favore, dire una cosa a favore del capo dello Stato, certo che Aurora Lussana è proprio l'ultima persona al mondo, però insomma, che devo fare, Aurora? No, se no vengo accusata subito di vilipendio del capo dello Stato. Ma che, per insomma, carità. No, vabbè, a parte che tanto, voglio dire, l'Italia è commissariata dall'Europa, quindi insomma... Beh, questo si sa. Ma cosa vuol dire commissariata dall'Europa? Ma nel senso, ovvio, c'era un accordo, basta sentire cosa dice Mario Draghi. Insomma, alla fine, voglio dire, ciò che conta è quello che verrà deciso... Non certo al Quirinale, non certo a Bruxelles, a Bruxelles. A Bruxelles, sì. È un paese a sovranità limitata. Questa è la nuova, il nuovo corso della Lega, lo sappiamo. Il nuovo mantra della Lega. È proprio così. Poi, vabbè, comunque, bisogna anche essere rispettosi delle scelte di Napolitano. È finito magari anche un percorso, per lui legittimamente, magari vuole cambiare vita. Vabbè, lo stesso ha sbagliato tutto. Ci vogliamo fare. E quando uno sbaglia, prende e se ne va, chiude. Uno chiude, scusa e se ne va. Addirittura. Secondo te il 13 gennaio? No, però al di là di questo, insomma, il discorso di Napolitano è un discorso molto, molto secco, a dire attenzione perché forse vado, già non l'ha detto così, forse vado via, ma si è adombrato anche questa possibilità. Oh, devo fare questa parentesi su. Ma chi è che pensa che lui ce la faccia a fare ancora 5 anni? O sei? Mm-hmm. Nessuno, sì, dai, se ne deve andare prima, dai, e se ne vada ancora con le sue gambe, che è in grado di camminare, cos'ha, anche se di testa non ci sta più. Siamo sopravvissuti alle dimissioni di un papa, insomma, voglio dire. Ne parlate già come se fosse una cosa passata. È passato. È una fase che è finita. Ma cosa stai dicendo? Il governo Letta, è una fase che è finita. Ora ci saranno le elezioni, governo Renzi e via. Per 5 anni l'Italia felice. Ma tu sei contento, però, perché tu Renzi l'hai... Questa cosa del Moncheto sostituire il finanziamento pubblico con un finanziamento di Moncler è meraviglioso. Sì. Vabbè, ma no. Perché ieri è stato il trionfo in borsa di Moncler, allora esatto, che cosa? Tornano gli anni 80, tornano i paninari, tu te lo ricordi il drive-in, Aurora? Arrivano i soldi al PD. Arrivano i soldi al PD e salva UDEM, la TV del PD. Quella non lo so, guarda, no, che oggi, niente. No, oggi c'è scritto sul Giorno, è salva UDEM. Salta solo la Geloni. Salta solo la Geloni, il direttore Chiara Geloni. No, cosa ridi, Aurora? Solidarietà tra direttori, ma insomma, è una direttrice come te. Donna. Insomma. È stata grande la Geloni sulla Madia, bisogna dire, no? Allora, devo leggere questa, poi parliamo di questi forconi. Il messaggio che arriva è il solito Corrado da Como, che ti stima tantissimo, cara Aurora. Della Lussana, nemmeno Santa Lucia ha voluto la compagnia. Oh, ragazzi, ha probabilmente un'attrazione erotica nei miei confronti, non lo so. Venite a trovarmi in redazione alla Padania, ne parliamo. Attenzione, scatta. Il signor sta lì a scrivere su suo dono. Ma era quello della scorsa volta. Se va la Ura, fa ergola, sa sta. Hai capito, Vincino? Oh, parlavano in dialetto di quelli... Sì, di quelli stretti. Quelli stretti. Comunque, era quello dell'altra volta, Aurora. La cosa più penosa, quell'inciaggio qui con i messaggini, quelle robe lì, io sono cresciuta, no, fin da piccola, col confronto diretto, anche se ce l'hai con uno, vai, cioè non lo so, quella roba qui. Allora, via Bellerio 41 a Milano, viene lì, viene a trovarmi e ne parliamo. Ma sì, dai, non era un linciaggio questo. Vabbè. Allora, che ne pensate di quello che sta succedendo? Questa marcia su Roma è diventata un po' una retromarcia su Roma, forse una marcetta su Roma, forse una burletta su Roma, non si sa. Vincino, che succederà domani? Tutto a pernacchie. Dopo il discorso di Renzi a Grillo sono pernacchiette, cose ridicole. Cioè, tu metti quattro dei Casa Pound e vuoi marciare su Roma con quattro dei Casa Pound, cioè, fai il ridicolo. Ma anche gli stessi, quelli là, i forconi più antichi l'hanno capito che era una stupidata immane, allora, no? Come era tutta questa storia qua dei forconi, una stupidata immane montata dalla stampa. Vabbè, stupidata, però insomma sono ancora un po'. Senti questo, sì, di Stefano, di Casa Pound, così poi Aurora lo commenta anche tu. Di Stefano. PM ha detto in aula che non si trattava soltanto di un furto, perché il valore materiale della cosa era veramente esiguo, perché l'avete visto tutti, era uno straccio sporco appeso lì da 10 anni. Ma era questo lo straccio sporco, cara Aurora, era la bandiera dell'Unione Europea che questo di Stefano ha preso e è stato arrestato, no? È stato fermato per questa cosa. Io sono rispettosa di tutti i simboli, di tutti i vessilli, di tutti i drapò dell'Europa, ovviamente c'è chi non si riconosce in questo modello sovranazionale di queste stelle sul fondo blu. Ripeto, insomma, è stato condannato come un eretico, però insomma è così. Ma tre mesi, ma manco niente, tre mesi. Copernicani. Ma tre mesi è poco per tre te. Tre mesi Vincenzo. È niente, dai. Però ha preso una bandiera. Cioè, no, allora aspetta, sono ma tanto adesso 50... fanno l'amnistia, dai, ne mandano fuori 3.000 di detenuti, va bene così. No, ma anche di più, ce ne vorrebbero mandare 15.000, cioè ci vorrebbe un'amnistia seria di quelle là, una bella amnistia seria, un bel condono e si ricomincia più tranquilli. Ah, su questo so che siete ben divisi, tu Vincino ne vorresti fuori di più dal carcere. Io vorrei uno abolire la Bossi Fini, la Giovannardi Cosa, tutte queste leggi qua che producono detenuti, no? Peraltro ci sono invece, tu hai visto questi 50 di quando sono andati a prendere la bandiera, 50 con la faccia mascherata con una specie di cosa tricolore bianca in faccia, erano proprio un drappello fascista che andava all'attacco, era una cosa terrible, diciamo. Terrible. Vabbè, Aurora, però devo dire una cosa, perché la Lega un po' strizza l'occhio, no, a questi che sono in piazza, cara Aurora, perché? Perché c'è tanta gente normale, c'è tanta gente che conosciamo, ci sono artigiani, ci sono piccolissimi imprenditori, partite IVA, anche qualche casalinga, tanti autotrasportatori, c'è chi è davvero abbandonato. In Francia quelli che votano la Le Pen vengono definiti dai sociali gli obliati, dimenticati, loro sono quella roba lì e come fai a comunque non ascoltarli? Cioè io comunque rivedo tanta gente che conosco, tanta gente che viene alle feste della Lega, gente semplice che magari davvero aspetta la festa della Lega per uscire a mangiare con poco. Non so, io sto sempre... Ma sì, ma questo è il disagio e va bene, cioè, però è un'altra cosa. Cioè, la maggior parte di quelli che non hanno che sono in difficoltà non vanno nelle strade. Esatto. Non sono... Allora, cioè, È il problema che abbiamo soprattutto al nord. Lo sai che tanti sindaci ci dicono quelli davvero in difficoltà non vengono neanche in comune ai servizi sociali per chiederci qualcosa, perché c'è questa dignità, c'è questa paura di chiedere. Quindi infatti va di solito l'immigrato extracomunitario che ovviamente falsifica il modello ISEE e quindi vabbè si becca i contributi, vabbè ovvio, perché quelli chiedono sempre. Detto questo, che c'è sempre stato questo pudore nel chiedere, se c'è qualche nostro concittadino che fa fatica e che c'ha un forcone in mano, cioè io non riesco a criminalizzarlo distinto, hai capito? Non è che io incito alla rivolta, le jacquerie sono per... Vincino, non è che Aurora è una che si tira dietro dalla lotta, perché Aurora crede a questa storia qua, questo è il punto. Io con un autocarro vado, blocco una strada e tranquillo ce la faccio, ma che discorso è? Vedo mille persone, ma non ci sono mille persone che bloccano la strada, ci sono 10 fascisti e 3 con l'autocarro e basta. Io capisco che in Italia siamo passati dalla sinistra dei rossi a quella rosea di Renzi, vabbè adesso è cambiato tutto, però tutte le volte che ci sono i popoli in rivolta negli altri paesi li guardiamo con ammirazione, invece la democrazia noi... al po'. Ma io non è che abbiamo un po' di gente in strada noi e sono tutti fascisti, sono tutti criminali. Alcune infiltrazioni ci sono state, però cerchiamo di osservare un fenomeno che anche noi conosciamo poco, noi giornalisti, però insomma effettivamente sembra più un po' così, una cosa che sta anche perdendo un po' mordente. Alcuni vorranno andare dal Papa, altri vogliono scendere in piazza domani, staremo a vedere. Intanto sentiamo le informazioni sul traffico e poi entriamo con Vincino e Aurora Lussana. 24 mattino. Qual è la tua sorpresina? Caro Matteo, stai sbagliando. È solo una scorreggina e gli italiani lo sanno. Finanziamento ai partiti devi levarla quest'anno. E tutti insieme caccia la grana. Orenzi caccia la grana. Caccia la grana. Orenzi caccia la grana. Vabbè, questa sarebbe la risposta di Beppe Grillo a Renzi, no? Secondo Fiorello. Oggi non c'è la segreteria telefonica, ma riprenderemo da domani. Perdonate. Mea culpa. Mea maxima culpa. Intanto siamo con Aurora, Lussana e Vincino. Sai, Vincino 1 ci scrive via sms in presa diretta, dice: a Forlì erano in 4 a bloccare il traffico, erano 4 spinellati figli dei fiori. Questo ci scrive una Forlì. Tra l'altro ci ha ricordato tutto questo un film che oggi viene citato anche dal Fatto Quotidiano. Caro Vincino, questi sono tempi tuoi. Ugo Tognazzi alias onorevole Giuseppe Tritoni, te lo ricordi? Era un film, Vogliamo i colonnelli. E quello l'ho fatto io mercoledì sul Corriere della Sera. C'è la mia vignetta, una pagina delle lettere con Grillo. Ho ripreso il manifesto Grillo al posto di Tognazzi. Porca miseria, me lo so. Tutti che ti copiano, io che grande gaffe che ho fatto. Diamo a Vincino quel che è di Vincino e facciamo sentire Tognazzi copiato dal Fatto, che ha copiato la vignetta di Vincino dal Corriere della Sera. Sapete che vi dico? Moschettieri, imbracciate il fucile! Artiglieri, innescate la miccia! Genieri, fuori i lamponi e sabotate le linee! Caimani, pugnale fra i denti e distruggiamola questa democrazia! Schiacciamolo questo vostro infame! Evviva l'obbedienza! Evviva il comando! Vincino, è un po' così. Lo sai che questa volta gli mancava il principe Borghese. Non avevano un capo, Mariano Ferro è troppo ridicolo. Mariano Ferro infatti fa parte Don della... Mariano Ferro è proprio, esce da un film della mafia di tanti anni fa. No, perché no? Guarda che nei forconi dell'anno scorso e 2 anni fa in Sicilia c'era un casino di mafiosi. Ma adesso c'è un film di quelli fatto del giorno della civetta. pista che vanno da Don Mariano, là, scusa, vedete preciso. Don Mariano, sì. No. Mariano Ferro va anche dal Papa domenica insieme a Chiavegato, questi di Life, i liberi imprenditori. E il Papa le riceve? No, non lo so, vanno domenica in Piazza San Pietro. Sì, vanno in Piazza San Pietro, però dice oggi dai giornali sarebbe bello che il Papa facesse un messaggio, un gesto, qualcosa. Che dire, cara Aurora, allora per par condicio, dopo quello, il tuo stalker di Como, c'è anche Moreno che ci scrive che devo dire che Aurora è sempre un bel risveglio, quindi meglio così, cara Aurora? Per tenermi buona, sì, perché non scatenata, te la sei inventata. No, te lo giuro, devo dire che Aurora è sempre un bel risveglio. Ci scrive Moreno, non posso darti il numero di cellulare perché non si può fare. Allora mi venga a trovare anche lui, insieme, alla redazione della Padania, insieme a Corrado da Como. Che siete... una copia del giornale del congresso. Siete benvenuti. Oh. Allora, io vi devo raccontare questa del cosa ha fatto il capo dei vigili urbani a Roma. Sai cosa ha fatto, cara Aurora? No. Ha invitato tutti i cittadini di Roma su Twitter di fare la spia, in pratica. Fare la spia, cioè denunciate la sosta vietata. Trovate qualcuno in sosta vietata a Roma, denunciatelo. Mandate delazione. Lo so. L'aveva fatto anche il sindaco di Bari, racconta oggi Repubblica. Aveva esortato i cittadini a segnalare i fannulloni nelle società municipalizzate. Tu... sindaco magistrato sbirro terribile, guarda, anche Emiliano. No, anche quello che ci segue tantissimo, saluto il sindaco Emiliano. Ma quello è uno terribile, guarda. Ma terribile perché? Cosa fa? No, il fatto che è largo 4 armadi per 5, no, è una cosa, prende 4 sedie quando si siede lui. Tutti terribili. No, è uno terribile quello. Ma tu denunceresti una Roma quello delle che cozze pelose, dai. Sì, le cozze, pelose. Che si fa il bagno tra le cozze pelose. Ho capito. Una cosa, guarda, ma tu denunceresti. Nel senso della comunità. Ma tu denunceresti, sì, uno. Il concetto della sicurezza condivisa è un po' quello. Cioè tu trovi uno. No, ma tu, Aurora, trovi una come in sosta vietata, che fai? Vai dal comando dei vigili urbani, lo denunci? No. Se non mi parcheggia davanti casa che c'è il passo, cioè sì, voglio dire, se tu appartieni a una comunità dovresti anche condividere un impegno civico, e quindi adesso di là ovviamente della delazione dei sicofanti, che sono personaggi un po' disprezzabili, però deve esserci anche una gestione condivisa della sicurezza. C'è il concetto dei volontari della sicurezza. Vabbè, cioè, non è che la violenza appartiene solo allo Stato, il monopolio della sicurezza la solo dello Stato. Ma che c'entra? No, vabbè, comunque vi devo salutare. C'è un altro messaggio, cara Aurora, è vero anche questo, ti fanno i complimenti per il tuo dialetto. Gran parlata in dialetto prima, ci regalerai qualche altra battuta in dialetto stretto. La prossima volta vi saluto. È tempo di giornale radio, rientriamo con la rassegna stampa. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Addirittura, eccoci, sono le 7:18 minuti, cari ascoltatori, cari amici debosciati d'Italia, sveglia che bisogna andare a rinfocolare e rimpolpare il PIL. E allora dai, sono le 7:18, come detto, oggi, visto che il Presidente della Repubblica Napolitano ha detto parliamo di riforme o me ne vado, questo in sintesi l'intervento che tra poco vedremo in rassegna stampa. E noi parliamo di una delle riforme che è stata annunciata da Enrico Letta, che ha detto ora basta il finanziamento ai partiti, ora basta, non è proprio ora, sarà dal 2017, sarà tutto sostituito con il 2%, il 2 per 1000 e il 2% magari per i partiti, il 2 per 1000 le donazioni da parte degli italiani, voi dareste un bel 2 per 1000 ai partiti? No, calmi, rispondete con serenità, sento già le vostre pernacchie più o meno. Però insomma ne parleremo alle 8:15 con ospiti qui su Radio 24, 24 mattino. Intanto andiamo a sfogliare i quotidiani. È martedì 17 dicembre e si avvicina il Natale. Dai, schema Allegri inserito a palla. Dai, forza!

chissà quando ce ne libereremo di questi articoli. Non del protagonista, per carità, lunga vita a Dudu, lunghissima vita a Dudu, che ieri ha compiuto un anno, ma io... Vabbè, il messaggero con il grandissimo Mario Aiello, che ha una penna sopraffina, scrive degli articoli di colore della politica, davvero da godere dalla prima all'ultima parola. Ma oggi mi tocca, caro Mario, amico mio, la carta costa va a te, al messaggero, festa grande ad Arcore per il primo compleanno di Dudu. Eccolo qua, il cavaliere, cioè Paparino, come lo chiamerebbe Dudu se parlasse, non è potuto andare ieri alla cerimonia dei saluti con Napolitano, perché il suo adorato barboncino bianco ha compiuto un anno. Gli han fatto la festa ad Arcore, Berlusconi, Francesca, una torta con una candelina e il regalino, vari doni, ma non quello che forse Dudu si aspettava di più: il permesso di dormire con Paparino e mammina sul letto. Ma Mario Aiello, ti rendi conto? Mezza pagina così! Ma insomma, la carta costa, la carta costa. E vabbè, giornale radio. Brutto cretino d'un Milan. 24 mattino. Quando sono le 8:19 minuti, proprio in questo istante, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, Giorgio Napolitano, l'avete sentito, fare le riforme altrimenti me ne vado. Per carità, non l'ha detto con queste parole, lo ha usato parole istituzionalmente più alte, ma in sostanza il messaggio lanciato ieri è stato questo. Tra le riforme, ce n'è una che è particolarmente richiesta a gran voce dai cittadini. Ricordate che già si votò con un referendum in passato per l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, è una vicenda annosa, tante volte ci siamo tornati. E che è successo? È successo che, visto che va tutto va tutto lentamente, va tutto avanti così, un passo avanti, un passo indietro, col passo del gambero, allora Enrico Letta, e con un decreto, e il governo ha deciso in Consiglio dei Ministri di mantenere la promessa, come ha twittato lo stesso Enrico Letta la scorsa settimana: manteniamo la promessa, abolito il finanziamento pubblico ai partiti. Ora, in realtà sarà abolito definitivamente nel 2017, i partiti non prenderanno più un euro, e tutto questo sarà sostituito poi da un meccanismo il cui principio basilare è quello del 2 per 1000. Sarà possibile, cari italiani, donare il 2 per 1000 ai partiti? Ci saranno tutte le questioni sulle le detrazioni fiscali. Sarà possibile donare anche con un SMS esente da IVA. C'è tutto un sistema che sostituirà, o dovrebbe sostituire, secondo quanto dice Enrico Letta, sicuramente sostituirà l'attuale finanziamento ai partiti. È questa la riforma che attendevate? 800 24 00 24, ne parliamo con voi, ne parliamo anche con Elisabetta Gualmini, che voglio salutare, editorialista della Stampa e presidente Buongiorno. Dell'Istituto Cattaneo. Buongiorno, dottoressa Gualmini. Tra l'altro lei ha scritto anche un libro, Il Partito di Grillo, insieme al professor Corbetta, edito dal Mulino, e quindi conosce, diciamo, quel movimento che si picca da anni di dire non prendiamo un euro di finanziamento, di finanziamento pubblico. Mi lasci salutare anche un rigradito ritorno, il tesoriere, uno dei tesorieri di Forza Italia, Maurizio Bianconi. Onorevole, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno a voi. Devo chiarire sì. Che non sono tesoriere di Forza Italia, ma del Popolo della Libertà. Ah, del Popolo della Libertà, mi perdono. Sì. Ah, sì, sì, certo, perché? Ma perché lì non c'è stata ancora la divisione? Ancora, cioè, bisogna dire. Ancora le deleghe le ha tutte il Presidente. Ah, quindi lei è importante, la Presidenza, la tesoriere del Popolo. Rimane, almeno per quel che arriva dalle casse, il Popolo della Libertà, è ancora in vita. Devo liquidare i debiti. Questa è una notizia, comunque. Non è ancora sciolto di fatto il non Popolo. È stato sciolto il Popolo della Libertà, c'è una delibera che ne sospende l'attività politica. Vabbè. Io penso anzi che riprenderà molto presto vigore. Questa è una valutazione politica. Cioè, in che senso? Rinasce politicamente? Non è morto. No, rinasce morto politicamente, nel senso. Io penso che in qualche elezione amministrativa addirittura. Ah. Sì. Penso per adesso. Riapparirà. Non penso che sia una figura. una cosa politica istinta, ma è un'opinione del è un'opinione personale, questo lo vedremo. Però onorevole Bianconi, lei che notoriamente è uno che non ha peli sulla lingua dice le cose, ha definito Letta in un modo un po' brutale dopo questa come l'ha definito? Cazzaro. Un cazzaro, perché? Quindi un bugiardo, perché se lei legge il titolo della legge che lui ha preso e ha fatto il decreto, non c'è scritto abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, ma c'è scritto norme per il passaggio dal finanziamento pubblico diretto al finanziamento pubblico indiretto. Sì. Il che significa che ci saranno sempre soldi pubblici che vanno ai partiti, i quali ancora graveranno sulle tasche dell'erario esattamente per i denari che costano adesso. Se le guarda, cioè non cambia nulla secondo lei proprio, fatti no, conti alla fine. Il profilo della spesa non cambia assolutamente niente, perché 91 milioni si spendevano, 91 milioni si spendono, 76 previsti in detrazioni fiscali, in più 15 per la cassa integrazione per i dipendenti dei partiti che dovranno licenziare. Ma questo anche se gli italiani non daranno più il 2 per mille, per esempio. No, se non danno più il 2, se non danno se non danno il 2 per mille, non ci sarà detrazione fiscale sul 2 per mille, ma ci sarà la detrazione fiscale sulle offerte, fino alla concorrenza di 76 milioni, che complessivamente non sono molti come detrazione fiscale, si raggiungono con una certa facilità. In più ci sono sicuramente 15 milioni di cassa integrazione. Dottore, non è finito, perché a questo si aggiunge la scalarità delle dazioni fino al 2017. Certo, quindi sì, ripeto, è chiaro. Un mentitore. Sì, no, questo è chiaro. L'anno prossimo credo i partiti prenderanno il 25% in meno, tra due anni il 50%, tra tre anni il 75%. Esatto, ha detto una bugia e ha fatto un decreto legge che non può fare, e il presidente gliel'ha firmato non potendolo firmare, per una questione, le leggi sono per le cose urgenti, cioè che devono essere fatte domattina, che prevede una scalarità fino a tre anni. Quindi è un bugiardo, cioè siamo sempre purtroppo vittime della, come posso dire, desiderio di comunicare cose che non sono fatte, e giustamente poi gli italiani saranno. Ma mi sembra di poter dire che questo decreto avrà vita difficile in fase di conversione parlamentare. Io farò un emendamento, glielo annuncio subito, che è costituisce abolizione del decreto dalla prima all'ultima frase, e ci metterò questa frase: il finanziamento pubblico dei partiti è abolito, punto, le detrazioni fiscali sono quelle oggi in vigore sulle offerte volontarie, punto. Questo è il modo di mantenere una promessa, abolire del tutto, non fare il cazzaro, perché sennò qui già si lamentano che noi abbiamo detto molte cose e non le abbiamo fatte. La sinistra che non ci ritrova nelle stesse condizioni. Allora, è chiaro. Chiudo. Il presidente Napolitano non può fare come quello: se fate bambini, se fate cattivi, me ne vado e poi rimane lì. Lui se ne doveva già andare, perché lui aveva detto che stava soltanto sul governo di larghe intese finalizzato alle riforme. E non ci sono state. Ma ne parliamo di Napolitano. Non ci sono più, e non può fare come quello che vende chicchi e dice: guardate che me ne vado. No, se ne deve proprio andare. Se ne deve andare, secondo lei. Non mettiamo troppa carne al fuoco. Io, Elisabetta Gualmini, e sono tutti voti per il Movimento 5 Stelle queste discussioni, secondo lei? Cioè, si parla tanto di questo tema sul quale il Movimento 5 Stelle punta molto legittimamente e dice: vedete, dall'altra parte ci sono così dei discorsi un po' annacquati, si dice, si fanno le cose, le promesse poi non vengono mantenute, e questo porta voti al Movimento 5 Stelle? Ma può essere, forse in parte c'è anche questo aspetto, insomma, sicuramente più la politica è lenta, più si perde in un mare di chiacchiere, più il Movimento 5 Stelle ci guadagna, anche se oggi, insomma, il Movimento 5 Stelle lui stesso è stato messo un po' con le spalle al muro, almeno c'è stato un tentativo di, insomma, da parte di Renzi di chiedere un forte contributo ad un'agenda di riforme, quindi non è che poi i grillini si possono sempre lamentare appunto sulla inerzia del Parlamento e poi dopo non rispondere mai a possibili tentativi di riforma. Quindi sono in una posizione, secondo me, un po' ambigua in queste settimane. Detto questo, insomma, non concordo pienamente con le parole grilline, se mi consente, dell'onorevole Bianconi, nel senso che sicuramente insomma, il decreto su questa trasformazione, ecco, del finanziamento pubblico ai partiti chiaramente non abolisce in maniera draconiana e dall'oggi al domani questi finanziamenti. Tra l'altro ricordiamoci che in tutta Europa ci sono finanziamenti pubblici, certo. Ai partiti, a parte la Svizzera, quindi dappertutto c'è un sistema in cui c'è anche un contributo da parte dello Stato. C'è un regime transitorio, perché sarebbe stato chiaramente molto difficile passare dal bianco al nero nel giro di 2 giorni, e anche questa cosa del 2 per 1000, che tra l'altro venne già approvata con il 4 per 1000 con una legge del 97. E fu un fallimento, diciamo. Fu un fallimento totale. Poi, in verità, io non vedo le file degli italiani, le corse degli italiani a donare soldi ai partiti in questo clima di profondissima, appunto, così, di scarsissima credibilità della politica. Per cui penso che comunque un passo avanti sia stato fatto, che alla fine, dal 2017, obiettivamente alcune cose cambieranno, poi si potranno fare degli emendamenti, ma insomma un segnale c'è stato. Secondo lei, da analista della politica, è stata la pressione di Renzi in qualche modo a spingere Letta e quindi il governo a dare un segnale forte, cioè il fiato sul collo di Renzi sul governo? Ma io sì, penso che Renzi tutto sommato abbia fatto Renzi da quando è stato eletto appunto segretario del PD e quindi abbia cercato di dare un'accelerata e di dare una scossa a queste piccole intese, quindi sicuramente, insomma, con un Renzi fuori dal Parlamento che scalpita perché riforme vengano fatte, anche perché in un clima di campagna elettorale per le europee, cioè è chiaro che lui deve darsi da fare e mandare qualche segnale, ecco, penso che ci sia stato sì un effetto Renzi sul governo. Che Letta abbia fatto bene tutto sommato anche a giocare d'anticipo, perché no? Tra l'altro, onorevole Bianconi, sulle parole grilline non è che mi è svenuto al telefono, no? Nel senso... No, sono svenuto sulle considerazioni successive della dottoressa, perché francamente continuare a sostenere che le menzogne sono verità ed è stato fatto bene non fa bene agli italiani. Però le chiedo questo, Bianconi, lei dice spesso dice sono costretto, se mi tagliate i finanziamenti, a licenziare delle persone, a licenziare dipendenti, e già ne ha lasciati a casa. Adesso cosa è? Critica il fatto che hanno fatto una progressività di detrazione di tagli fino al 2017, che voleva tagliarli subito, così poi ci diceva devo sbattere le persone sulla strada, i dipendenti, chiudere le sedi. Caro dottore, vede, la giornalista, che mi dispiace, la dottoressa, non ricordo il nome. Gualmini, la dottoressa Gualmini, presidente dell'Istituto Cattaneo. La dottoressa Gualmini e lei adesso state facendo la mia parte. Cioè, io sono uno di quelli che è fermamente contrario all'abolizione del finanziamento pubblico. L'ho detto e l'ho ridetto, per tutta una serie di motivi che stamani non le ripeto. Però se si dice che la maggioranza e la stragrande maggioranza degli italiani vuole l'abolizione del finanziamento pubblico, io sono convinto che bisogna abolire il finanziamento pubblico, non prendere in giro gli italiani. Sì. E questo non è un passo in avanti, dottoressa, perché anzi è un passo indietro, perché daremo i soldi col criterio delle iniquità, perché chi avrà molti elettori danarosi capaci di offrire fino a 300.000 euro e che avranno delle dichiarazioni di redditi molto sostanziose e magari prendono il 3% dei voti, prenderanno la maggioranza dei finanziamenti pubblici rispetto a partiti che magari hanno il 25% dei voti e non hanno così la fortuna di avere gente che mette i soldi sul partito. Sì. quindi invece di essere equi si diventa anche iniqui. Quindi per prendere in giro gli italiani, cioè per dire che si è abolita una cosa che non si è abolita, si è fatto una cosa peggiore, che è diventata anche ingiusta. Non so, Gualmini segue, io devo andare in pubblicità, ma Gualmini segue su questo il ragionamento di Bianconi? Ma non capisco però la controproposta, cioè è evidente che se si abolisce il finanziamento pubblico scattano le donazioni dei privati, ovviamente con un tetto, ed è chiaro che c'è il rischio che alcuni partiti abbiano lobbies oppure simpatizzanti più ricchi di altri, quindi questo è un chiaro rischio e penso anch'io che ci vogliano delle regole ben precise, però allora o lo si abolisce e si va verso un mercato cosiddetto privato oppure non lo si abolisce e si va verso formule miste, cioè non capisco la proposta costruttiva del mio interlocutore. La proposta magari ce la dice dopo la pubblicità, tante volte ne abbiamo parlato con l'onorevole Bianconi, ci raggiungerà anche l'onorevole Matteo Mauri che è tesoriere del PD alla Camera, è tesoriere alla Camera, tra poco anche le vostre telefonate 800 24 00 24, la credete a questa promessa o questo taglio del finanziamento pubblico ai partiti annunciato da Enrico Letta? 24 mattino. Allora, questa abolizione del finanziamento pubblico ai partiti è una qualcosa, una tiritera a cui credete? È un decreto annunciato dal Premier Letta che davvero avrà degli effetti? Ne stiamo parlando con il tesoriere, uno dei tesorieri del Popolo della Libertà, Maurizio Bianconi, con Elisabetta Gualmini, che è editorialista della Stampa, nonché presidente dell'Istituto Cattaneo. Voglio salutare anche l'onorevole Matteo Mauri, che è il tesoriere alla Camera del Partito Democratico. Buongiorno onorevole, eccoci. Buongiorno. Qua. Buongiorno a lei e a tutti. Allora, fatemi sentire un ascoltatore, Gerardo dalla provincia di Varese. Gerardo, che ne pensa lei? Buongiorno. Buongiorno, niente, io ho cercato di interpretare la legge che hanno appena approvato, che approveranno, da quello che ho capito. Mi pongo una domanda, il solito problema della vecchia politica. Cioè? Perché dal 2018, oltre al 2 per 1000, da quello che ho capito io, oltre alla donazione volontaria, sì, tutti gli uffici, tutte le bollette, tutti i dipendenti, tutti i corsi di formazione, gli stipendi, aggiornamento saranno comunque a carico dello Stato. Diciamo, ci saranno delle detrazioni fiscali, sì, chiaro. Ci saranno delle... Il problema qual è? Perché io devo pagare l'affitto di un partito di cui non condivido il programma, quando in realtà io voglio pagare, sostenere il partito di cui io condivido il programma. Non è giusto, cioè alla fine il finanziamento è indiretto. Sì. Quindi lei dice è un po' una riforma a metà, ecco, segue più l'idea dell'onorevole Bianconi che dice non si è abolito per nulla. Gerardo, la ringrazio. Andrea D'Asti da Sergio Asti, buongiorno Sergio. Buongiorno. Allora, io sono completamente contrario a questa situazione, sono un dirigente esodato. Ho subito. Pronto? Sì, la sentiamo, Sergio. Sì. Ho subito la riforma Fornero, per cui dovevo andare in pensione a gennaio 2014, andrò a luglio del 2016. Sì. Per tutti noi cittadini normali le riforme valgono in una notte, per i partiti invece non vale mai niente. Quindi la trovo una grossa presa in giro. Una presa in giro, ma perché? Perché crede che non è stata fatta dall'oggi al domani? Perché crede che neanche nel 2017 produrrà effetti? Perché credo che nel 2017 non produrrà effetti, perché continueremo a pagare noi e non è giusto, anche perché siamo lì a mantenere una pletora di persone che non fa nulla, assolutamente nulla. Oggi c'è questa cifra. Non interviene su nulla. C'è questa cifra, caro Sergio, la ringrazio. C'è questa cifra sui giornali, è il rapporto annuale della UIL, 23,2 miliardi di costi della politica. Sono 1.100.000 persone, secondo la UIL, che ogni anno vivono in qualche modo di politica. Il 5% delle persone di forza lavoro, delle persone attive dal punto di vista del lavoro, una spesa per contribuente di 757 euro all'anno, ogni contribuente paga, questo secondo la UIL. Onorevole Mauri, ha sentito, c'è sfiducia, cioè, allora, l'onorevole Bianconi ha detto molto brutalmente che Letta è un cazzaro, cioè un bugiardo, uno che le promesse le dice ma non le mantiene. La gente ha una sfiducia a dire forse neanche nel 2017 crede che questo produrrà degli effetti. Questo è un problema per voi politici, caro onorevole Mauri, perché la gente non crede più a nulla. principale in questo momento per questo paese. Poi l'onorevole Bianconi è molto simpatico, per cui devo dire l'accetto col sorriso sulle labbra, il gesto su Letta, anche perché Letta è solamente da pochi mesi alla Presidenza del Consiglio e tante cose si sono fatte anche sul tema del finanziamento. Per esempio, noi abbiamo approvato un bilancio della Camera giusto un mese fa, dove c'è un taglio chiaro di almeno 200 milioni di euro da qua ai prossimi tre anni, ed è un taglio di collaborazione, un taglio di consulenze, un taglio, guardi, anche su cose banali ma importanti, tipo gli affitti che la Camera ha sempre avuto nel centro di Roma e che oggi si ritengono inutili, oppure si sono tagliati dei privilegi, si può dire in questo caso privilegi che erano proprio del Presidente della Camera, dei vicepresidenti. Cioè lei sta dicendo la politica si sta dando una logica, si sta dando un taglio ai costi. Diciamo così, alcune cose si stanno facendo, anche perché negli ultimi, diciamo, 5-6 anni tagli alla pubblica amministrazione in giro per tutto il paese, il che vuol dire funzionamento dei comuni, delle province fin quando ci saranno, delle regioni meno, probabilmente dello Stato, si sono fatti. Poi si può ragionare che non siano abbastanza, però dobbiamo tenere fermo un punto. Noi dobbiamo garantire l'efficienza delle istituzioni, perché l'efficienza delle istituzioni va a vantaggio dei cittadini. Bisogna farlo, come sempre, le cose efficienti, col maggior risultato e i minori costi. Sì, però, no, ma onorevole, quello che chiedeva anche l'onorevole Bianconi, che l'ascolta, è dire: ma perché non si è fatto dall'oggi? Cioè, abolire il finanziamento ai partiti vuol dire dall'oggi al domani è abolito. Anche questa forma per cui transitoriamente fino al 2017 vengono tagliati il 25% l'anno prossimo, poi il 50%, il 75%, poi ci sono delle detrazioni favorevoli che favoriscono il finanziamento indiretto. Ma per un motivo molto semplice, perché altrimenti i partiti morirebbero domani, dall'oggi al domani. Io credo che sia un valore della politica, riconosciuto anche in Costituzione, il fatto che i cittadini possano essere rappresentati dai partiti, perché altrimenti non si capisce chi svolge quella funzione. Perché o non la svolge nessuno o la svolge. Ah, ma è chiaro, solo quelli che ha capito Bianconi, è quello che diceva lei, cioè per evitare le lamentele di lei che dice poi devo chiudere dall'oggi al domani tutte le sedi, c'è questa norma transitoria, questo regime transitorio. Vedi, dottore, e qui si gira intorno al fuso e non si coglie il problema. Il problema non è il finanziamento pubblico sì o no, del cui parlavo fra un secondo. Il problema è se Letta abbia detto una bugia o non l'abbia detta. Letta ha detto una bugia. Ma lui ha scritto: Letta ora mantengo il finanziamento pubblico. Però io l'ho riletto il tweet, non ha detto ora abolito, ha detto ora in Consiglio dei Ministri manteniamo la promessa di abolire, certo, la promessa mica di andare tutti a prendere un caffè. No, la di fare il decreto. Era quella di abolire, se non la fa la Camera lo farà il governo, abolire il finanziamento. Ora pubblico. Manteniamo la promessa, cioè sta facendo un decreto. E non ha mantenuto nulla, perché ha preso una legge fatta male, sul quale abbiamo già noi parlato varie volte, che non intendo oggi riannoiarvi. E ha fatto il decreto. Ha fatto un decreto. Una cosa non urgente, che prevede 3 anni di escalation, ma soprattutto che non abolisce il finanziamento pubblico. La dottoressa mi diceva: la faccia lei la proposta. No, guardi, che io sto discutendo se questo mantiene o non mantiene le promesse. Io dico che questo, cioè l'onorevole Letta, prende in giro, fa la politica della comunicazione, salvo poi sentire gli ascoltatori, che sono meno scemi, la gente meno scema di quello che pensano certi politici allevati sempre con il panico del potere. Voglio dire, la gente ha capito. Lui deve fare la sua figura. In realtà lui è in un rapporto dialogico, in uno scontro interno con Renzi, e fanno farsi le sorpresine. Ah, è questo, cioè il motivo Renzi. Allora, però il tema è: come fa il Movimento 5 Stelle a vivere senza questi finanziamenti? Dopo il traffico lo vorrò chiedere a Elisabetta Gualmini, che appunto ha scritto questo libro Il Partito di Grillo, perché evidentemente una via è possibile, e una via è quella del Movimento 5 Stelle, ed è possibile tra poco. Allora, eccoci qua all'ultima parte di 24 Mattino. Dottoressa Gualmini, com'è possibile che il Movimento 5 Stelle si autofinanzi, diciamo così? sì, ma è possibile sicuramente vivere soprattutto a livello locale, durante le campagne locali e regionali, di autofinanziamento, di contributi dati da privati, e soprattutto per il fatto che il Movimento 5 Stelle usa moltissimo come forma di comunicazione di campagna elettorale la rete, questa insomma costi magari molto meno imponenti che non viaggi, comizi, eccetera. Però c'è anche una discussione molto aperta sul sistema di finanziamento al movimento, perché insomma si parla anche di introiti pubblicitari molto insomma massicci che arrivano tramite appunto sito. L'utilizzo del sito. Anche questo cioè, è uno strumento e di quindi, marketing che viene utilizzato, voglio dire, è legittimo? È legittimo o... Cioè, è chiaro che, voglio dire, anch'io non voglio essere la paladina del appunto della legge che verrà, del decreto legge che verrà convertito, eccetera, però sicuramente quel decreto va verso una direzione che è quella di una profonda trasformazione insomma sì. dell'uso di soldi pubblici, eccetera, anche perché oggi nel clima in cui siamo penso che nessun partito oserebbe presentarsi ripristinando situazioni del passato, perché verrebbe no, appunto, questo sì, ma credo che sia anche un modo, un invito però, quasi alla politica a rinnovarsi, e questo bisogna capire se sia un bene o un male, cioè dai partiti appunto. Strutturati ai partiti che devono in qualche modo con strategie di marketing anche cercare di reperire dei fondi, ecco, è un bene, è un male? Ecco, la risposta non c'è, nel senso che se noi guardiamo fuori dall'Italia il sistema ottimale sarebbe un sistema bilanciato e temperato, in cui c'è comunque uno stanziamento pubblico che ovviamente va distribuito in base al numero appunto di voti che un partito ottiene, alla grandezza e ai consensi che un partito ha, non a tutti uguale, e poi ci sono anche finanziamenti privati che però devono essere certificati, controllati, resi molto trasparenti. Dopodiché in Italia siamo arrivati molto molto tardi e come sempre rincorrendo dopo sì. queste questioni, e quindi si sta facendo molta confusione intorno a questo tema, e quindi arriveremo ad un sistema che alla fine forse non accontenterà nessuno. È chiaro che se si passa tutto ad un sistema di marketing privato poi ci sono i rischi di scarsa trasparenza, i rischi appunto di diseguaglianze e di iniquità sì. e quindi siamo, il tema fondamentale è che l'Italia ha rincorso questo tema, non è stata reattiva dal 93 che ci siamo, certo. E quindi adesso adesso sì, chiaro, la politica è che insegue. Onorevole Mauri, guardi che quando lei ha detto i partiti eccetera, io non le dico i partiti che rischiano di morire, non le dico i messaggi, e glieli pongo così come segnale forse anche di inquietudine, ha visto anche quello che ci ma sono, guardi, le proteste in questo della gente, ma magari morissero, magari chiudessero, magari sparissero, magari no, tutti questo è un po' il tenore dei messaggi che arrivano. Ma infatti mi piace dire delle cose anche controcorrente, perché so perfettamente qual è in questo momento il sentore più diffuso, però bisogna essere consapevoli che quando non c'è più qualcosa, qualche effetto si produce, e se non ci sono più i partiti è un danno per tutti. Poi qualcuno può discutere di questi partiti, di questo modello di partito, ma sì. quella è un'altra discussione. Io credo che saremmo più poveri tutti come cittadini, non se, non ci come politico, se non ci fossero i partiti. Sì. Dopodiché, quella cosa che diceva Bianconi prima su Letta, guardi, Letta ha fatto col decreto un'accelerazione del percorso, ha fatto una cosa radicale, intanto, radicale, perché dire zero finanziamento, zero aiuti, vi finanziate solamente con il 2 per 1000 o con le donazioni con un tetto e quel 2 per 1000 è solo quello che indicano per voi, non è che poi si fa il giochino che c'è l'inoptato, un fondo più certo. ampio, no, chiarissimo così, guardate che è considerato anche una cosa grande. Ma come mai lei dice che è una cosa radicale? Lei Bianconi dice che praticamente è guardi, tutto come prima, io lo dico perché qualcuno in questa fase qua deve sempre dire qualcosa che non funziona. Invece basta vedere la situazione attuale, qual è il finanziamento pubblico e cosa sarà a regime tra pochissimo, per rendersi conto che non è così. E c'è una cosa in più, guardi, tengo a dire. Letta ha fatto il decreto, Bianconi diceva non c'era l'urgenza, ma allora c'è l'urgenza o non c'è l'urgenza? Perché ha fatto il decreto? Guardate che noi alla Camera l'abbiamo già votata quella legge lì. Sì, è vero, noi è vero. Alla Camera però poi non per cui non è avanzare. La rincorsa di Renzi, perché questa cosa Letta l'ha fatta molto prima di questo congresso, tanto per capirci. Beh, però l'abbiamo il tempismo sembrava un po' sospetto, il tempismo è un po' sospetto. Ma le sto dicendo perché poi poi la, come dire, la politica come la vita vive anche di fatti, non solo di supposizioni o di dietrologie. L'ha fatto diverso tempo fa, l'ha detto anche nel suo discorso di insediamento, l'abbiamo votato la Camera, perché l'ha ripreso col decreto legge? Perché se fosse andato, se avessimo aspettato il Senato, sarebbe andato per motivi tecnici oltre la fine dell'anno, sì. E tutto rischiava di slittare. E siccome tra l'altro aveva promesso entro la fine dell'anno abolito, e quindi ecco infatti questo decreto. Fatemi sentire Luciano da Brescia prima di andare a concludere anche con gli ospiti. Luciano, buongiorno, che pensa? Buongiorno, sono Luciano da Brescia, sì. E saluto quasi tutti. Beh, io ho sentito tante parole, ma io vado alla sintesi, sì, del problema. Io come cittadino, facente parte del popolo sovrano, quando ho sentito Letta che ha detto aboliremo il finanziamento pubblico ai partiti, sì, mi sono ricordato che diversi anni fa io ho partecipato, votato e vinto un referendum, sì, dove ho vietato il finanziamento, certo, pubblico ai partiti. Quindi io vorrei denunciare Letta, no, per truffa e chiedere il rimborso di tutto quello che hanno speso. E se rimango senza soldi posso lantingere, non so, vendendo le case di Monte Carlo, vendendo le case che sono talmente piene di soldi e quant'altro, no? E tutte quelle persone, 100.000 persone che avrebbero dei problemi, fanno come tutti noi. Io fra l'altro sono un esodato, fra l'altro, no? Si fanno un po' di cassa integrazione e poi si trovano un lavoro che magari produca qualcosa e non solo danni, no? E si arrangiano come fanno gli italiani, perché voi state veramente fomentando, ma i voi forconi, chi? Ma tra un po' i forconi saranno non forconi, ma voi chi? Teorici. Ma caro forconi Luciano, ma si calmi, ma io faccio informazione nel mio piccolo, piccolissimo, posso dire, non fomento nessuno. Onorevole Bianconi, lei a casa è a Monte Carlo da vendere? Non mi dica adesso che non avete niente. No, purtroppo no. No, lei il partito, dai, su un po'. No, di... non abbiamo niente, casa da vendere. Io volevo dire due cose. Sì. La prima, il problema è non prendere in giro, ecco, questo è il più problema. Allora, Letta ha fatto il decreto legge perché è diciamo così in contrasto con Renzi, lo dicono tutti, non no lo però dice, non mi torni su questo punto perché ho 20, ho 20 secondi, se no mi sfumano. Onorevole Bianconi, mi dica questo in 20 secondi, da toscano a toscano, da Aretino a Pisano, che dice a Enrico Letta? No, Enrico Letta ha esaurito la sua funzione. Enrico Letta è un uomo di potere, Enrico Letta è un grande comunicatore, ma di grandi comunicatori ne abbiamo avuti abbastanza. Ne sparisce uno e ne vengono due. Vabbè, ma questo non è da Aretino a Pisano, è una cosa, è un giudizio politico. Vabbè, ma dai, mi devo fermare, altrimenti sforo. Vi ringrazio tutti. Se volete stasera accendete su 7 Gold, ci sono, tornano i funamboli. E che sono i funamboli? Conduco io, e quindi 7 Gold alle 21:10. Ciao. Oh, a domani. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.